Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona domenica a tutti, buona domenica a tutti da Magazine 24, l'appuntamento con le riviste italiane e straniere in circolazione in questi giorni. Ci sono degli argomenti che diventano ricorrenti per la cronaca, altri che lo diventano in modo casuale. Con questa è la riflessione che Anita Panizza ed io facevamo preparando questa puntata, perché abbiamo notato che su diversi magazine si parla in questi giorni, settimanali o mensili, dei tiranni, e questo è comprensibile perché naturalmente abbiamo visto cadere alcuni regimi decennali nei paesi nordafricani, altri sono, e lo sappiamo purtroppo dalla cronaca, sono sfociati nella guerra civile, e questo è un primo argomento. Infatti di tiranni, ad esempio, parla Newsweek, che si è messo anche a fare una sorta di quadrante in una sua coppia di pagine dell'indice del despota, e ha preso in esame un po' di questi tiranni che ci sono ancora in circolazione. Li ha classificati ovviamente secondo la nazione, ma anche l'età e da quanti anni sono al potere, poi il loro soprannome, qual è il loro vizio più conosciuto, più noto, e qual è anche il peggiore crimine commesso di cui si ricordi. Naturalmente in questo particolare quadrante, posto d'onore anche per le vicende di cronaca, occupato da Muammar Gheddafi, ma subito dopo Kim Jong-il, il nordcoreano, poi Lukashenko, Mugabe dello Zimbabwe, Bashar al-Assad siriano, e così via, altri ancora. Il despota da più tempo in carica risulta, al momento in cui è stato stampato Newsweek, ovviamente Gheddafi, con 41 anni di potere ininterrotto. Ci sono altri numeri abbastanza impressionanti, ad esempio Teodoro Obiang della Guinea Equatoriale è comunque al potere da 31 anni, è un signore di 68 anni, agli stessi anni appunto del Rais libico. E via via poi ci sono anche i vari, vi dicevo appunto, crimini peggiori che sono stati attribuiti o commessi proprio da questi signori in giro per il mondo, e anche curiosamente i leader politici invece di paesi democratici che in qualche modo si propongono come legittimi interlocutori di questi signori, o comunque hanno dato loro una qualche forma di legittimazione. E naturalmente purtroppo ci finiamo anche noi, perché avendo rapporti da molto tempo con la Libia abbiamo anche avevamo forse è meglio dire dei trattati anche con il Rais libico. Però per dirvi ad esempio il despota che sta in Uzbekistan, Islam Karimov, ha trovato una sorta di legittimazione niente meno che nel cantante Sting, oppure il re siriano ha trovato anche lui una sponda favorevole in Lula da Silva, e così via. Quindi ci sono, diciamo, delle questioni diplomatiche, degli inconvenienti diplomatici, o forse sarebbe meglio dire addirittura degli imbarazzi diplomatici, che accomunano un po' tutto il mondo in questo sostegno ai tiranni. Ma la parola tiranno in qualche modo doveva essere nell'aria, perché sul venerdì, che era in edicola appunto 2 giorni fa con Repubblica, si parla di un libro, Giuliano Aluffi per la precisione, ci parla di un libro che si chiama Tirannia della scelta. In realtà non si occupa affatto di tiranni, ma apre la serie del secondo argomento di moda, cioè c'è stata una sorta di convergenza tra i vari magazine nell'indicarci alcuni malanni del nostro tempo o di stagione. In questo caso parliamo appunto di depressione, di infelicità, di frustrazioni con Tirannia della scelta, perché Tirannia della scelta è un libro di una sociologa slovena che si chiama Renata Salek, e critica la tendenza moderna a ricorrere ai libri di autoaiuto, cioè molti di noi facciamo spesso ricorso a libri che ci promettono di liberarci da qualche vizio, piuttosto che guadagnare di più o comunque in qualche modo essere più felici per un qualche motivo della nostra vita. Spiega la Salk appunto a Daluffi: la pubblicità ci dipinge come individui capaci di un godimento illimitato e di una infinita possibilità di realizzarci. Allora chi non trova pagamento si sente l'unico responsabile di quello che vede come un fallimento. Cosa facciamo per alleviare questo peso? Seguiamo appunto i consigli di autoaiuto, che da quelli più banali, lo stesso oroscopo lo è in qualche modo, infatti lei lo cita, ma ci sono poi i guru nei libri di autoaiuto. Queste autorità, ed è importante la notazione che fa la Salk, che viene ripresa appunto da Luffy sul Venerdì, queste autorità non sono autorità istituzionali come potevano essere i genitori, i sacerdoti, i partiti che accompagnavano lo sviluppo in anni più lontani. Erano autorità a cui ci si poteva all'occorrenza anche ribellare per formare il nuovo carattere. I life coach, cioè gli allenatori alla vita di oggi, sono invece punti di riferimento che vengono scelti da noi. Non c'è più bisogno di sfidarli o di contestarli, li cambiamo al massimo quando ci stufano, ma in questo modo poi rimaniamo passivi e non cresciamo. Inoltre, prosegue sempre la Salk, la cultura del self-help, cioè dell'autoaiuto, è spesso ingannevole, parla ad esempio dei nostri sentimenti come se fossero sempre razionalmente controllabili. Fa impressione sapere, e lo prendo come ultima indicazione al venerdì, che se voi fate una ricerca su Amazon.com, una libreria digitale, trovate oltre 130.000 libri che si propongono in qualche modo di aiutarci ad amare noi stessi. Però, spiega la studiosa, allo stesso tempo diventa sempre più difficile amare gli altri. Tirannia della scelta, la tirannia della scelta è il libro appunto da cui ha preso spunto Giuliano Luffi sul venerdì di questa settimana per parlare di tiranni, ma in tutt'altro modo. E infatti la citazione era un po' sulla nostra capacità di essere felici o infelici e ci porta direttamente a Panorama di questa settimana, dove un altro volume, Storia segreta del male oscuro, scritto da Gary Greenberg, che è uno psicoterapeuta americano, riprende una polemica che da tempo serpeggia nello stesso mondo medico. Noi sappiamo tutti che c'è un problema di depressione a livello mondiale e che la depressione è un malessere che è cresciuto moltissimo nell'ultimo secolo e mezzo. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oramai la definisce il comune raffreddore della malattia mentale, così ricorda Chiara Palmerini nel suo articolo su Panorama. L'OMS stima che la depressione sia la seconda causa di invalidità nel mondo. Pare davvero un'epidemia dilagante anche a giudicare dal consumo di farmaci contro quello che abbiamo imparato a chiamare il male oscuro. Solo in Italia nell'ultimo decennio è triplicata la vendita degli psicofarmaci, più 310%, e il dato viene dal rapporto Osserva Salute. L'intervista che Chiara Palmerini e Panorama ci propongono con Gary Greenberg è però dubbiosa, nel senso che avanza il dubbio che tutta questo ricorrere agli psicofarmaci in realtà cerchi di curare non tanto la depressione, che è malattia vera, quanto piuttosto un senso magari generale di infelicità, che forse non è ancora la depressione. Quindi nell'intervista Greenberg dice in qualche modo c'è stata un'invenzione di questa malattia e per la quale oggi si spendono 20 miliardi di dollari all'anno in cure. Non è un'accusa, viene precisato, all'industria, perché dice l'industria fa quello che deve, cioè fanno cavalcare l'onda dei tempi alle aziende, e se in questo momento c'è una richiesta di questo tipo di farmaci l'industria ovviamente cerca di andare incontro a questa richiesta. Ma il problema forse parte proprio da noi, i consumatori, che dicono, dice lo stesso Greenberg alla Palmerini, sono persone convinte che i medici debbano curare la loro infelicità. Più avanti nell'intervista si chiede ma se è un errore di diagnosi o di valutazione da parte dei medici. Greenberg è prudente, dice ma io credo che anche usando con scrupolo i criteri diagnostici si ottiene comunque che una persona su 5 soffre di depressione o ne soffrirà, questo fa il 20% della popolazione mondiale. Allora lui dice io mi fido di questi numeri, io credo che provengano da medici che usano i criteri diagnostici in modo competente, ma possiamo farne diverse cose. Possiamo concludere che c'è un'epidemia di depressione, oppure forse stiamo appunto allargando molto il concetto. Se depressione è sofferenza significativa, molti ne soffrono, ma altrimenti, se restiamo proprio nell'ambito della patologia, dobbiamo un po' restringere l'utilizzo di questa diagnosi. Infatti una delle domande dice: ma allora non c'è un'epidemia di depressione, c'è un'epidemia di tristezza? E quasi positiva la replica di Greenberg, che dice: beh, io direi un'epidemia magari di infelicità o anche solo di malcontento. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando appunto della nostra, come dire, difficoltà a essere felici, delle difficoltà che abbiamo a essere felici, tant'è vero che c'è appunto questo uso, questa crescita nell'uso dei psicofarmaci per curare la depressione, che poi, come avvertono magari gli psicoterapeuti, come avvertono gli esperti, a volte potremmo chiamare depressione quella che è soltanto una sorta di insoddisfazione, di malcontento. Tutto questo parlare di massimi sistemi mi fa ricordare che da stamattina trovate in edicola una nuova puntata della nostra collana, della collana proposta del Sole 24 Ore, in cui i filosofi di oggi raccontano i filosofi di ieri. E la puntata in vendita da stamattina è quella in cui Roberta De Monticelli racconta appunto nel video Sant'Agostino e San Tommaso e la filosofia medievale. Se vi interessa, lo trovate con il Sole 24 Ore, è un DVD proposto a 9,90 euro. Ma un altro malanno è un malanno ricorrente e di cui infatti i settimanali si occupano, e sono invece le allergie, malanno molto più facilmente misurabile e che sembra in continua crescita. Questo è quello che sostiene anche, che conferma anche l'inserto, il dossier che viene presentato da Famiglia Cristiana questa settimana. Le allergie risultano in crescita soprattutto tra i bambini. Qualche dato che viene ricordato dall'inserto di Famiglia Cristiana: milioni di italiani allergici attendono la primavera come un incubo, e nel mondo gli allergici sono 400 milioni. Sempre secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, molto citata come vedete questa settimana sui settimanali, il numero delle persone allergiche è destinato a salire. Nel 2005 potrebbe esserci un adulto su due allergico. Alle allergie da polline si aggiungono infatti quelle alimentari, quelle da farmaci, per le punture degli insetti, per gli acari e così via. Allora si tratta di individuarle, prevenirle e curarle. Ci sono diverse indicazioni anche operative, come dire, su Famiglia Cristiana, ma per queste vi rimando appunto al numero in edicola. È interessante la chiacchierata che Eugenio Arcidiacono fa con Michele Ciccarelli, che è responsabile dell'unità operativa di pneumologia all'Humanitas di Milano. Parla appunto la crescita delle allergie e gli viene chiesto ovviamente: ma questo aumento è dovuto al riscaldamento del clima, in qualche modo al cambiamento del clima terrestre o all'inquinamento? Ciccarelli conferma che l'inquinamento gioca un ruolo rilevante, perché favorisce l'infiammazione delle vie aeree e questo rende più probabile la reazione allergica. Però c'è un altro fattore, spiega lo stesso Ciccarelli, che ha un ruolo paradossalmente importante, ed è il miglioramento delle condizioni igieniche generali, perché lavandoci di più e pulendo con più cura gli ambienti dove viviamo, abbiamo ridotto negli ultimi decenni il nostro contatto con molti batteri, e quindi il nostro sistema immunitario, specie nella prima infanzia, è meno stimolato, quindi è più probabile che poi reagisca attivandosi contro delle sostanze che percepisce erroneamente nocive, come i pollini. Alla base, chiedono però, ci deve sempre essere una predisposizione genetica, chiede Arcidiacono? La risposta è sì, sempre. Secondo studi recenti, i bambini nati da madri portatrici di allergia hanno una buona probabilità di ereditarla, circa il 30-40%. Queste le indicazioni per quanto riguarda le allergie che trovate su Famiglia Cristiana. E allora, visto che ci è toccato parlare un po' di malanni, tirannie, insomma argomenti magari non proprio che mettono di buon umore, facciamo un passo all'indietro, e grazie a Storica di aprile parliamo di cibi afrodisiaci, che sicuramente sono un argomento un po' più stimolante di quanto possa essere la crescita delle allergie. Gli immortali cibi afrodisiaci, scrive Margherita Giusti su Storica, perché fa proprio una piccola rassegna dei cibi afrodisiaci secondo le varie culture antiche. Forse non sapete che le ostriche sono sempre o quasi sempre state considerate afrodisiache, mentre ci sono cibi di cui oggi non diremmo più che hanno poteri afrodisiaci e che invece venivano considerati tali in altre epoche, in altre civiltà. Vi leggo qualche brano di questo lavoro di Margherita Giusti che trovate su Storica. Dice: dagli umili fagioli, la lattuga, le lenticchie, l'aglio e fino ai raffinati e costosi funghi e alle ostriche. I cibi afrodisiaci hanno attraversato i millenni senza che la loro fama sia stata minimamente scalfita e nonostante non esista alcuna evidenza scientifica delle loro proprietà. Perché si tratta di un piacevole inganno che ha effetti soprattutto psicologici, cosa che peraltro quando si ha a che fare con l'eros non è affatto da sottovalutare. Insomma, sono più dei placebo che dei farmaci veri, si direbbe, però tutte le civiltà, anche quelle più antiche, li hanno ricercati, anche la nostra, che ora però ha sviluppato anche dei rimedi, come dire, più farmacologici, più chimici, a questo tipo di domanda. Fin dall'antichità, scrive la Giusti, ogni cultura ha cercato di individuare gli alimenti che accendessero il desiderio e ogni civiltà ha avuto le sue ricette. Gli antichi egizi, ad esempio, giuravano sul potere afrodisiaco della lattuga, tanto che l'avevano consacrata al dio della fertilità e appunto era per loro il non plus ultra del cibo afrodisiaco. Però con una quasi una sostanziale parità si classificava la cipolla, tanto che gli egizi vietavano il consumo di cipolla ai sacerdoti che avevano fatto voto di celibato, perché appunto ritenevano che questo li avrebbe indotti in tentazione. Avevano un bando del genere i greci sulla menta, che appunto veniva invece considerata da loro un importante afrodisiaco. Aristotele, che fu precettore di Alessandro Magno, consigliò appunto al condottiero di non far bere il tè alla menta ai soldati durante le campagne militari. Questo era appunto da sconsigliare. In realtà sulla menta c'erano opinioni diverse anche nell'antichità, le polemiche appunto sono sempre esistite e anche le divisioni tra gli scienziati. Per esempio Ippocrate, che poi è il fondatore della scienza medica, diceva che in realtà la menta non ha assolutamente un effetto afrodisiaco, anzi casomai il contrario. Invece sia Ippocrate sia Aristotele dicevano che le lenticchie erano sicuramente un cibo afrodisiaco. Plutarco parlava bene dei fagioli a questo proposito. I romani, più vicini a noi, avevano invece sviluppato una notevole attenzione ai frutti di mare e alle ostriche, e questo è, diciamo, una indicazione che è giunta pressoché intatta fino a noi, mentre non mi pare che su lenticchie e fagioli si sia mantenuto questo tipo di aspettativa. C'era addirittura un luogo per l'allevamento delle ostriche vicino Pozzuoli, un lago che era stato battezzato Lago di Lucrino. Lucrino derivava proprio da lucrum, cioè da guadagno, perché era così fiorente, così richiesto questo tipo di prodotto, che questo lago assicurava un notevole guadagno ai suoi proprietari. Oggi gli esperti, conclude la Giusti, riconoscono che fra tutti i cibi presunti afrodisiaci nelle varie civiltà, le ostriche sono l'unico che potrebbe avere qualche evidenza scientifica, questo per l'alto contenuto di zinco, un minerale appunto che agisce positivamente soprattutto sulla fertilità. Questo il nostro ultimo argomento per oggi. Nell'augurarvi buona domenica ringrazio Pietro Lacorte che mi ha assistito in regia, grazie come sempre ad Anita Panizza, e se volete potete scriverci magazine24@radio24.it. Magazine 24 ritorna sabato prossimo.